c'è qualcuno? Hola? Attenzione, canale 10. Lillo, butta giù la pasta, che è pronta. Lillo, butta giù la pasta. Che va? Attenzione, dici. Billy. Oui, ciao, mamma. Tutto a posto? Un bel caso, uè. Ui, lascia perdere il suo ventilatore, 24 su 24 acceso. A lavoro cazzo stavo scrivendo. E io adesso mi sono fatto una doccia, dai, sto un po' meglio. E io mi la giovattava, cazzo, come sono uscito dalla scelta, l'usura che mi riparava. Lo so, è così. Devi avere il coraggio di fartela un po' calda. Calda. Cazzo, guarda, me la faccio bella tiepida, neanche fredda, tra freddo e il tiepido. E anche io la faccio così, ma dice che se la fai calda poi non subi. Sì, non subi, cazzo, non subi. E lavorare, andare, tiepido adesso. Ehi, cazzo, ma tu vai tutta la linea e devo andare a lavorare. Domani pomeriggio. Va bene, dai. Quanto c'era oggi? Cazzo, veramente 34 gradi. Mamma mia. E non ti invidio, eh. 34 gradi, che lì sei anche in un fosso. Pensa tu. Che ci accumula tutto il caldo lì. Cazzo, mamma mia. Te ne so. Ah? Penso che così a fare a Gurugani io, perché questo qui sta sclerando lo stesso, sempre in terra, non ci sta nella sua cuccia, se ne sta in terra perché è più fresco. A me mi sono un mucchio tra pesci, uno quello nero che si attacca al vetro, e due, uno un neo e uno dei guppi. Se tu non mi dai retta, ci devi mettere il ghiaccio dove ci sono i filtri. Quando sale troppo la temperatura, loro muoiono. C'è poco da fare. Il termostato la regola sul calore che va. Ma poi se aumenta il caldo dall'esterno, devi sopperire tu con qualche coperto di ghiaccio dentro dove c'è il filtro. Non in mezzo ai pesci, dove c'è il filtro. E dove c'è la spugna? Devi mettere qualche pezzo di ghiaccio, se sale troppo alto il piatto, se no te li ammazza tutti. Lo so. No, adesso va bene, a 24, ma la carica tu vai già a bloccare. D'estate ne muoiono sempre, se non stai attento, io quando vedo che la temperatura è troppo alta li cambio l'acqua, un po' di acqua, li tolgo, la cambio e li metto in ghiaccio. E l'acqua gliel'ho pulita 6 giorni fa, io avevo pulito la spugna, tutto quanto, io più di metà acqua gliel'ho cambiata. Bastano 3 dita. Vabbè, gli ho cambiato metà, adesso è pulita. Vabbè, poi ti piacerà i soldi, ti ricompriate. Sì, i soldi c'ho. I soldi c'ho. Ma lui, ma i gamberi più visti li ha? No, proprio più visti si sono mangiati, da quando ho messo quei cazzo di cose, di corridora, secondo me si sono mangiati. Io non li ho messi dentro e non li ho più visti, boh. Cazzo di aria, boh. Sono imboscate, ma non mi sembra, se no se non li visti. Secondo me sono black muli. Allora, sicuramente sì, se non rimane a dieta. Perché i black muli hanno la bocca grande e poi sono un bel voraci. Però qui li vogliamo mangiare, vedi come ti mangia. Ciao. Già l'ho visto, cazzo di aria. Non me ne manco più pesce, già me ne culo. Quando gribano tutti si manco un cazzo di piranha, si manco. E se la ciappi no, che piranha. Io già li ho trovati, ce li ho avuti due. Però poi li ho dovuti dare perché sono diventati troppo grandi. Ma se no si manco un pesce rullo, finita la festa. Se no ci metti due piranha, quelli si mangiano quelli e rimangono quelli lì. cazzo via. No, non ne prendo più pesci, basta. Basta, se ci sono quelli incinta, che sa di che durano. Ma già si riproducono. Sì, vabbè. L'interessante è che si riproducano, poi già ci sono sempre. A produrre già si producono, sì. Allora avevo tempo a farsi dare un anno, avere il colore. Vabbè, quella è la natura, ci pensa, non è che devo farlo lui, non è che il bilo bizzello coloremo noi. Caldo, caldo, caldo. Cazzo di aria. Non ho mai visto un cazzo il mese di luglio, di giorno così, Manuè, sai che esistevano dei pesci trasparenti che li coloravano, li facevano le strisce fucsia, gialle, li coloravano tutti, erano pitturati blu. Ma che cazzo va a dire, ma morivano. Boh, non lo so, i cinesi li vedono queste cose, boh. Non so come facciano, però me l'aveva detto Davide che erano colorati a mano. Io li stavo per prendere, pensavo che fosse naturale, poi lui mi ha detto così, no, ma allora non li voglio, lascia perdere, tanti ti grebbano subito. Vendevano anche pulcini vicino al mercato, tutti colorati, azzurri, gialli, rossi. Vicino al mercato? E dove? Vicino al mercato, ma all'ingrosso, mercato del pesce. Quando c'era il mercato vecchio, dove c'era il pesce, si metteva uno e vendeva i pulcini, anche le galline vendeva, e vendeva questi pulcini tutti colorati, gialli, verdi, azzurri, di tutti i colori. Li colorava, gli dava qualcosa da mangiare di colorante. Che cazzo! Erano tutti colorati, bellissimi, cazzo, erano bellissimi, però non erano naturali. E beh, cazzo, l'abbiamo misurato. No, sicuramente gli ha dato qualche colorante in mezzo alla roba da mangiare, capito? Da far diventare così, perché anche i canarini, quelli fattore rosso, quelli rossi, non sono naturali. Gli devi dare un bastone rosso e diventano così le piume. Ma il pappagallo è venduto gli altri? No. E cazzo, non chiamato, così uno era interessato. Vabbè, ma lo sai come sono, no? Li vogliono regalare, non ne do io, ma non li vendo più, lo so te. E la gente vuole la roba a regalo, ma io a regalo non ne do. Beh, la gente si sta praticando, sì. Io ho preso 4 di quelle di quei modellini l'altro giorno da una persona che lavora lì alla finanza, un finanziere. Ho preso 4-500, una diversa dell'altra. €15 l'una, bella, se va il motore, la torta di scotta, apri gli sportelli, il cofano, bella, bella, bella. Sì, ma non sono grandi quanto la mia 600, la mia 600 vale un bel, io ce l'ho da tanto con la 600. Ma vedi che si legge un bagaglio così anche non va via nella scatola, se no che si va di almeno 60-70 euro quella macchina lì, a macchina. Ma ce l'hanno il coso per il piedistallo? E allora, ce l'ha, ma ci manca la cosa, ci manca la cazzo si chiama, la scatola. La custodia, vabbè, ma io gliel'avevo tolta, c'era anche nella 600, c'era scritto 600, tutto l'altro, ma era più bella da vedere così, perché io la metto con gli sportelli aperti, con i cofani aperti. E quella del 500 sono così venire. C'era rossa, blu, bianca e gialla. Ma 600 non ne hai? No, la sto cercando, l'ho vista su Amazon, sulle 20-30 euro. Ma bisogna vedere che scala c'è, la mia è grande, non è piccola, è un modello grande. E il tuo è dall'1 a 18, come la 500, come quella che ho io, è dall'1 a 18. Vabbè, comunque io le prendevo quando ero ragazzo e cose, però lì ce l'ho da un bel proprio. Poi c'ho Alfa Romeo, ne ho altri, te lo mandate mi pare. Sì, dove? No, ma io voglio fare quelli della Fiat, voglio fare la 126, voglio trovare la 600, la 127 e l'850. Allora, su internet a Napoli ci sono dei ragazzi che hanno il negozio di tutte le macchine modellirmi che ci sono. Tutte quelle che lì che li hanno, di diversi colori, diversi tipi, che hanno degli diversi anni, sono proprio accessoriati. Ogni macchina che li chiedono, dicono, e che te l'ha detto che non la trovi? Guarda, ne ho tre io di quelle. No, ma ne vuole troppo. Io ho visto uno che stava vendendo una 500 con quella campagnola, che ci aveva portato a pagarli sopra con la ruota riscossa, e ne voleva 40 euro. A parte che non... ne ho già 4, non me ne posso nuda di un'altra. Io se riesco a trovare quella che ti ho detto, e basta. Poi i Vespini voglio trovare. C'ho Primavera, c'ho la Vespa Special, ce li ho. Quelle lì le voglio trovare, ma già le trovo quelle. Il più che altro è a trovare la 600, l'850. Adesso dovrei guardare su Amazon che c'erano, però non mi fido tanto. E perché? Non lo ammazzano, è tranquillo. Se non vanno bene, i signori te li mandano nessuno. No, che non siano i cazzo di plastica, io di plastica non ne voglio, quello che ho sono in ferro. Però con il ferro le paghi, capito? Con il ferro le paghi. E vabbè, sono belle, dai, da vedere. Solo che è un casino, quando devo spolverare ne devo togliere tutto quanto, è un casino. No, io le ho messe dentro la vetrina, almeno non si riempiono di polvere, le ho messe dentro la vetrina, perché tu ti devi prendere una vetrinetta. No, io ce l'ho sulla mensola della cameretta, dove c'è anche fotografie e roba del genere, e l'ho messa lì, sono in esposizione proprio, capito? C'ho anche l'R1, l'R6, c'è tutte le moto anche. Beh, in esposizione, ma che ha fatto una vetrinetta e sono in esposizione. Invece così devi stare il cazzo sempre più varare, perché ti entra la polvere dentro dopo. E io ce l'ho messa dentro questa vetrinetta e li vedi sempre le macchine, perché ce l'ho in sala io. E tu sei convinto che nella vetrinetta non entri polvere? A tutti i diti, che io ho pulito la cristalliera l'altro giorno e gli ho dovuto togliere tutti i bicchieri, tutta la roba, ed era piena di polvere lo stesso. Sì, se c'è un cazzo mese e mezzo senza pulirla, è normale che sarò più. Non era un mese e mezzo, assolutamente. Io ogni tanto le pulisco, però la vetrinetta bisogna avere il tempo per pulirla, perché tutto i bicchieri mica li rimetti così, li lavi i bicchieri, poi li rimetti. Ci vuole tempo, li devi asciugare, fare, non è così. Già lo so. Già lo so, ma io sarei buono infusi una tanta vetrinetta. Ma i bicchieri vogliono lavati, capito? Bicchieri, piatti, tutta la roba che c'è. I vasi, bottiglie, via dicendo. Vabbè, là, ti lascio che devo portare giù il cane adesso e così almeno vado, vai. Ciao Manuel, stammi bene. A lunghe videre. Ciao, già, tanto adesso non c'è la televisione, mi guardo un po' di telegiornale. Ciao, buonasera.